Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Non sarà nei titoli, ma invece aprirà questa puntata di Möbius, l'attrito. E però adesso ecco qua che cosa vi racconteremo. Ma cos'è questa storia dei primi 3 secondi dell'universo? Conversazione problematica sulle scoperte del CERN di Ginevra. Caccole e karaoke, doping e pornotax sono alcune delle 172 voci del dizionario delle idee non comuni. Le piante non sono angeli. Astuzie, sesso e inganni del mondo vegetale. Tra patate che mettono in fuga gli afidi con l'inganno e certe orchidee che si travestono. Se fosse possibile ricreare l'energia delle stelle, cioè la fusione nucleare sulla Terra, avremmo risolto tutti i nostri problemi di energia. Ma il sogno, proprio adesso che sembrava concretizzarsi, forse sta svanendo. È capitato spesso nella nostra trasmissione qui a Möbius di affrontare il tema delle nanotecnologie e direi quasi sempre vi abbiamo dato quella che è un po' la cornice generale di questo nanomondo, il mondo piccolissimo. Cioè vi abbiamo detto quando si entra nel nanomondo la fisica e la chimica cambiano. Questa è una cosa che può sembrare sorprendente, ma laggiù negli spazi infinitesimi c'è qualcosa di profondamente diverso. Però sembra che invece ci sia anche qualcosa di costante, è l'attrito, e di questo vogliamo parlarvi e ne parlo con il mio ospite questa sera, che è Erio Tosatti. Buonasera Tosatti. Buonasera. Lei fa ricerca e insegna alla SISA di Trieste nel campo della struttura della materia e poi è anche associato all'Istituto Officina Molecolare del CNR, che è sempre lì a Trieste. Allora, ho sbagliato a dire che l'attrito è qualcosa invece che resta costante come problema anche nel mondo nano, nel nanomondo? Certo, l'attrito esiste dappertutto, nel mondo grande e nel mondo piccolo. È una benedizione o una iattura, a seconda dei casi, più spesso una iattura universale. Nel mondo di tutti i giorni è un problema tecnologico gravissimo e studiato dai tempi di Leonardo. Nel mondo nano si comincia a studiarlo adesso e questa è la porta d'entrata per capire come funziona. Voi avete appena pubblicato una ricerca piuttosto interessante e importante in questo campo. Quando è uscita? 3-4 mesi fa e fa parte di un filone che stiamo perseguendo ormai da anni, di fare dello studio teorico e di simulazione di situazioni di attrito che in parte sono già sviluppate sperimentalmente e in parte no. In qualche caso vogliamo andare avanti rispetto agli esperimenti perché la simulazione lo consente. Quando parliamo di nanotecnologie e di nanomondo abbiamo appunto, come dicevo prima, delle grandi differenze, per esempio dei materiali che sono conduttori, se andiamo sul piccolo diventano isolanti e viceversa, quindi mutamenti profondi. L'attrito però, lei dice, è una costante e lì in fondo non dovreste capire come funziona l'attrito in generale, complessivamente, cioè andando a valutarlo, ad analizzarlo appunto nell'infinitesimo, forse lì non si riesce a capire che cos'è l'attrito in generale? L'attrito in generale nel mondo grande è fatto di tanti contatti che slittano e un mondo estremamente complesso che fra l'altro va a finire fino ai terremoti, alla metallurgia eccetera. Nel nanomondo si studia più possibile il singolo contatto, il singolo slittamento, un pezzo di superficie ben definita si slitta su quella e in questo modo si scoprono delle cose che prima non era possibile quantificare perché è una situazione molto ben definita e c'è un sacco di misure che vengono fatte e quindi anche un sacco di cose da capire. Provi allora a spiegarci un attimo che cosa vuol dire lavorare, analizzare un nanoattrito. Cioè lei dice si studiano delle superfici di contatto molto molto piccole, per esempio tra quali materiali, tra quali elementi? Dal punto di vista sperimentale i nostri colleghi preferiscono superfici molto controllabili, quindi spesso si tratta di superfici di carbonio come grafite, grafene, che adesso è molto popolare, i nanotubi, ma anche superfici metalliche. metalliche, superfici che si possono controllare bene per capire la situazione. E noi abbiamo fatto le nostre simulazioni, avevano a che vedere con lo slittare su superfici di grafite. La grafite è notoriamente scivolosa. Studiando questo tipo di problemi si riesce a individuare dei meccanismi e delle modalità attraverso cui la dissipazione si può capire per poi trasportarla nell'altro mondo. Dissipare è una costante, non ci si può, diciamo, muovere senza dissipare energia, per noti principi della termodinamica, però bisogna capire il meccanismo come questo funziona. Sperimentalmente usano queste nuove tecniche nuove, si fa per dire, con le punte microscopiche, a partire da questo che, diciamo, i nostri sviluppi hanno preso il movimento anche dal punto di vista teorico. E lì che cosa avete individuato di significativo? Nell'ultimo lavoro che abbiamo fatto, in realtà ci siamo lanciati un po', insomma, da un lato abbiamo spiegato per esempio come si individuano i nanotubi, come si può capire la loro chiralità semplicemente dall'attrito, la loro avvolgenza, eccetera. Mi pare che di questo abbiamo già parlato una volta che ci siamo sentiti. Sì. Adesso siamo buttati più avanti, abbiamo fatto slittare teoricamente certi gruppetti di atomi, certi cluster di oro sulla superficie di grafite, e li abbiamo fatti, abbiamo spinti a velocità bassa e velocità alta. A velocità bassa tutto è noto e abbiamo verificato quello che è già noto teoricamente. A velocità alta non ci sono esperimenti, nessuno sa cosa succede se uno lancia una cosa a 100 metri al secondo sulla superficie di qualcos'altro a livello microscopico. Noi l'abbiamo capito, secondo noi, teoricamente, adesso aspettiamo che qualcuno ci faccia avanti e ci faccia gli esperimenti per capire che cosa. Questo usiamo questo per estendere il range delle cose che capiamo, più che puntare a un'applicazione immediata. Lei diceva all'inizio che l'attrito è un grande problema / risorsa, problema perché certamente in molte situazioni genera per esempio calore, no? Si stima che 5% di tutta l'energia spesa nel mondo, che è tanta, vada persa in attrito, quindi immaginiamo se uno riuscisse a fare un piccolo contributo a diminuire l'attrito in certe situazioni, quanta energia salverebbe, quanta usura salverebbe, le macchine vanno a quel paese per questo motivo. D'altra parte noi stiamo in piedi e camminiamo solo perché c'è l'attrito, e freniamo con la macchina, e se non ci fosse l'attrito, addio. Quindi è evidente che si tratta di aspetti tutti e due molto importanti. Si tratta di trovare ottimizzazioni sia in una direzione che in un'altra. In certi momenti va utilizzato, in altri andrebbe evitato. Esatto. E questo è quello che i nostri colleghi ingegneri e tecnologi fanno da sempre. Il nostro obiettivo è di capire delle cose che stanno sotto, non per l'utilizzazione immediata, ma certamente come la base che poi costituirà il meccanismo per andare avanti in tecnologia nel futuro. Secondo lei è possibile all'orizzonte avere dei materiali che effettivamente possano avere delle prestazioni completamente diverse da quelle che conosciamo rispetto all'attrito? Questa è la speranza, questo è uno degli obiettivi che ci poniamo sempre, nel retro della mente, qualche volta neanche tanto nel retro. Trovare nuovi materiali che si comportino diversamente, sagomare delle superfici che si comportino diversamente, ma anche fare delle cose che controllino l'attrito. Per esempio, facendo delle piccole oscillazioni su due contatti che stanno slittando, l'attrito si può cambiare. Adesso abbiamo appena spedito un lavoro nel quale noi vorremmo cambiare l'attrito facendo una piccola transizione di fase nel materiale sottostante, che passa da ferro elettrico a parelettrico, supponiamo, e che l'attrito potrebbe controllare. L'attrito è la parola d'ordine certamente in tutti i versi. Grazie Tosatti e buon lavoro. Grazie mille. Quando si parla dei successi cinesi in ogni campo è frequente sottolineare che una buona percentuale di tali successi risiede in condizioni complessive, culturali ed economiche che non sono paragonabili a quelli di paesi come quelli europei. Per esempio, si usa dire, quando osserviamo i nostri cantieri edili che avanzano con estenuanti lentezze, e questo certamente è un dato, si usa dire che in Cina, mentre noi siamo al primo piano, loro sarebbero già a riverniciare la facciata, perché dopo un po' di tempo, si sa, la manutenzione ci vuole. Però a me è capitato di parlare con ingegneri italiani che hanno costruito in Cina, e da loro ho avuto racconti sui cantieri di codesto paese che le miniere cilene sono centri benessere di alberghi a 12 stelle in Abu Dhabi. e vi sia una generale e diffusa differenza che prima o poi si farà sentire, spingerà la Cina a un ridimensionamento complessivo del suo status, che ci sia appunto questa differenza emerge anche da alcuni episodi relativi al mondo scientifico abbastanza sorprendenti. A giugno di quest'anno Fan Huan Chang, giornalista scientifico, dopo aver scritto un articolo che si proponeva come critico rispetto ad alcune ricerche di urologia, è stato aggredito una sera in strada da una squadra di picchiatori. Avviata l'inchiesta sul fattaccio, ecco che si è scoperto che Xiao Chuanguo, urologo della Università Huazhong, era il mandante del pestaggio. Poche settimane fa, invece, Fang Xinmin, che è un ricercatore che gestisce un blog in internet nel quale si analizzano molte attività di ricerca con l'intenzione di verificare l'esistenza di scorrettezze nelle ricerche stesse, ecco che pure a lui cosa capita? Un gruppo di picchiatori lo ha affrontato sempre per strada. Fan Xinmin ci fa sapere che il suo blog, sul quale sono segnalati ogni anno almeno un centinaio di casi di possibili frodi, non è tanto un suo hobby motivato dalla passione di fare il guastafeste. Non è così perché in Cina non esiste di fatto una commissione centrale di controllo sulle attività di ricerca. E quindi ecco che invece un controllo dal basso svolge, almeno per il momento, una funzione più che meritoria. Finché gliela fanno svolgere, naturalmente, perché la tecnica del pestaggio, come vogliamo definirlo, scientifico, pare molto in voga. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La vitamina C è al centro del quiz di questa settimana. Ecco la domanda. Gli esseri umani, ovvero noi tutti, non produciamo la vitamina C naturalmente. Dobbiamo procurarcela mangiando, tipicamente frutta, verdura. Abbiamo bisogno di almeno 10 mg giornalieri. Se non lo facciamo, cominciamo ad avere disturbi gravi nell'arco di poche settimane. È lo scorbuto questo, no? La malattia da assenza di vitamina C e poi sopraggiunge il peggio. Gli Inuit, una delle due etnie in cui si divide il popolo degli eschimesi, non prende lo scorbuto sebbene vivano in zone prive di vegetali. Come mai? Prima possibilità. Perché mangiano il muktuk, un mix di pelle di balena e grasso congelati. Ci scriverete balena. Seconda possibilità. Perché gli Inuit si sono evoluti geneticamente senza il bisogno di vitamina C. E ci scriverete evoluti. Terza e ultima possibilità, la vitamina C è fondamentale nella regolazione delle escursioni termiche del corpo e dove vivono gli Inuit fa solo tanto freddo e ci scriverete freddo, dove al 349 238 6666 il libro che si vince questa settimana è Dizionario delle idee non comuni, scritto da Armando Massarenti, edizioni Guanda, e con Armando Massarenti parleremo fra poco in questa puntata. In collaborazione con IBS.it. Barbara, ciao, sei d'accordo che affrontiamo questo tema? Ciao Federico, direi che prima o poi dobbiamo proprio farlo. La notizia è uscita in questi ultimi 10 giorni, all'LHC sono tornati indietro nel tempo e hanno visto com'erano le cose all'origine dell'universo, perché è stata data in questo modo, no? Sei d'accordo? Insomma, diciamo che stanno cominciando a farlo, quello è l'obiettivo, accelerano gli ioni piombo, mentre fino a nella fase precedente di sperimentazione acceleravano protoni, accelerando gli ioni piombo riescono a studiare quello che dovrebbe essere uno stato della materia che si è formato veramente nei primissimi istanti, il cosiddetto plasma di quark e gluoni. L'inizio, i primi 30 secondi, poi ogni tanto si parla dei primi 3 secondi oppure dei primi 3 minuti e con il nostro ospite che adesso tu introduci partiremo direi da questo. Il nostro ospite è Gabriele Veneziano, è uno dei massimi fisici teorici che abbiamo in questo momento, è anche un fisico del CERN ed è probabilmente l'unica persona al mondo che ci può aiutare a capire o almeno a immaginare cos'è veramente successo non solo al momento del Big Bang ma addirittura forse prima del Big Bang. Buonasera Veneziano. Buonasera. Allora lei ci dà una mano a chiarire queste cose, però le dovremo fare qualche domanda scomoda. Si adatta, vabbè, possiamo partire. Ecco, la prima domanda è fino a quando possiamo dire di avere un'idea, una certa sicurezza di cosa è avvenuto poco dopo il Big Bang? Un minuto, 3 minuti, pochi secondi, come diceva Federico? Beh, diciamo dipende dalla nostra conoscenza della fisica a scale diverse, diciamo andando indietro del tempo troviamo un universo sempre più caldo e quindi dove le energie sono sempre più elevate. Quindi per capire l'universo primordiale dobbiamo capire la fisica a quelle energie o a quelle temperature. Per esempio gli esperimenti di astrofisica guardano alla fase in cui si sono formati gli atomi, diciamo risalgono nel tempo fino a quando c'era un plasma non di quark e di gluoni ma di elettroni e protoni che invece di essere associati in atomi neutri vivevano isolatamente. Quindi se vogliamo questa fase che cerchiamo di capire all'LHC è una fase ancora precedente, molto precedente, che risale a qualche millisecondo dopo il Big Bang, in cui non solo gli atomi erano dissociati, ma addirittura i nuclei stessi degli atomi si erano spaccati nei loro costituenti, che sono appunto i cosiddetti quark e gluoni. Ma senta Veneziano, non le chiedo di spiegarlo, però quando voi fisici teorici riuscite a dire i primi 10 secondi e poi i 1000 secondi, ecco, su queste differenze che sembrano impalpabili, voi riuscite ad avere, come dire, delle prove consistenti che vi consentano di parlare appunto di 10 secondi e poi di 1000 secondi? Sì, è un'ottima domanda e effettivamente questo è dovuto al fatto che c'è una relazione inversa fra il tempo dopo il Big Bang e le energie in gioco a quell'istante. Cioè, quindi diciamo andare indietro dal secondo al millisecondo sembra una sciocchezza, però per l'energia siccome si perde un fattore 1000 andando dal secondo al millisecondo, in energia si guadagna un fattore 1000 e quindi per noi andare da un secondo a un millisecondo è un'impresa enorme, vuol dire moltiplicare l'energia dell'acceleratore per un fattore 1000, che è una cosa tutt'altro che banale. Ma avete qualche prospettiva, andando così indietro nel tempo, di arrivare a un punto in cui dite no, non c'è stato il Big Bang, abbiamo degli indizi che c'è stato qualcosa di diverso? Sì, allora diciamo, dobbiamo distinguere, con la fisica degli acceleratori, se vogliamo veramente ricostruire le condizioni dell'universo primordiale, non credo si possa andare molto al di là di qualche microsecondo dopo il Big Bang, onestamente, perché come spiegavo un momento fa, più si avvicina al Big Bang, più esplode l'energia necessaria nell'acceleratore e quindi siccome ci sono dei limiti umani all'energia, alla grandezza di un acceleratore, all'energia a cui si possono accelerare le particelle, sarà probabilmente difficile andare molto più là. Viceversa, possiamo capire quello che era l'universo al Big Bang da osservazioni indirette, cioè perché quello che è successo al Big Bang ha un'influenza su cosa possiamo osservare oggi. Cioè lei dice a quel punto andiamo invece sull'estremamente grande, osserviamo l'universo e forse lì qualche traccia per le risposte la troviamo? Perché diciamo quello che era piccolissimo al Big Bang con l'espansione dell'universo è diventato enorme e ora possiamo osservarlo nel cielo. Quindi è molto importante secondo me avere presente questi due aspetti della fisica di oggi, cioè la fisica dell'estremamente piccolo che ci fa capire le leggi fondamentali della fisica e la fisica dell'estremamente grande, cioè la cosmologia, l'astrofisica, che invece ci permette di vedere queste strutture che magari hanno avuto origine al Big Bang o anche prima, come si diceva. E secondo me queste due discipline devono, tanto che lo dico, devono andare mano in mano. Diciamo, storicamente per un po' di tempo sono stati due campi della fisica che non si parlavano molto, ma negli ultimi decenni abbiamo visto che c'è una notevolissima sinergia, diciamo, fra queste due discipline. diciamo. Le chiedo però questa cosa: se andiamo all'origine del tutto, non c'è materia da nessuna parte e a quel punto non ci sono nemmeno le leggi fisiche, no? Perché non c'è materia, per esempio, allora che senso ha parlare di gravità? Come dire, la fisica nasce nel momento in cui si ha l'esplosione iniziale, il Big Bang. Ecco, però allora, a quel punto a me è capitato di sentire, forse magari in modo un po' divertente, lo dicevano, però noi fisici, siccome non c'era nemmeno la fisica, perché dovremmo interessarci di quello che c'era prima del Big Bang? E qui, insomma, effettivamente viene fuori una domanda abbastanza pressante, cioè a chi lo affidiamo? Ai commercialisti? Lo studio del... cosa c'era prima del Big Bang? Perché a voi non interessa? Questo, no, a me interessa. A lei interessa. Cioè, diciamo, questo ragionamento può essere anche giusto in un certo contesto, cioè se uno si mette da un punto di vista della fisica della relatività generale di Einstein, senza la meccanica quantistica, perché come sappiamo Einstein lottò per molto tempo in questa diatriba se la meccanica quantistica andasse considerata e messa insieme alla sua teoria dell'universo, se vogliamo. Se ci si mette nell'ottica di Einstein, effettivamente c'è questo inizio del tutto. E quindi non ha senso effettivamente porsi la questione di cosa c'era avanti. Qualcuno ha fatto il paragone con il polo nord della Terra, non ha senso sapere cosa c'è sopra al polo nord se ci si limita alla superficie della Terra. Ma il punto è che l'universo subito dopo il Big Bang non era vuoto, era pienissimo. Certo. Era densissimo, eccetera. Quindi, diciamo, questa materia c'era. Diciamo, magari prima non c'era niente, però tutto a un tratto c'era un sacco di roba. E allora, diciamo, uno si pone la questione: è veramente necessario dire che il Big Bang è l'inizio del tempo? Ma questo vuol dire che allora su quello che ci può essere stato prima ci si può muovere e ci si potrà ragionare. C'è tensione a dare una risposta. Sì, oggigiorno esiste una teoria, si chiama teoria delle stringhe, in cui ho avuto una piccola parte anch'io, che afferma di poter mettere insieme la teoria di Einstein e la meccanica quantistica e quindi di poter almeno formulare questo problema di cosa sia successo a T uguale a zero, tempo uguale a zero. In un modo preciso. Si può chiedere questa domanda. Questo non vuol dire che la risposta sia semplice, cioè moltissima gente sta lavorando in questo momento su questo problema. È possibile che la risposta a questa domanda sia che non c'è stato niente di infinito, perché questa teoria delle stringhe contiene in sé una scala, per esempio contiene in sé il concetto di una temperatura massima. Tutti sappiamo che c'è una temperatura minima, no? Lo zero assoluto. Bene, la teoria delle stringhe dice che c'è anche una temperatura massima, quindi l'universo non può aver avuto temperatura infinita, mai. Quindi non ci può essere stato questo momento invalicabile che si chiama il Big Bang. E quindi la questione è: ma allora se c'è stato prima e diciamo si spera che un giorno, fra non molto, almeno nell'ambito di questa teoria, si trovi una risposta a questa domanda. Allora Barbara, cosa pensi? Possiamo ritenerci soddisfatti di questa risposta dei fisici teorici? Beh, direi di sì per il momento, poi aspettiamo ovviamente la risposta successiva, come sempre si fa quando si parla con i fisici teorici. Ma allora lo salutiamo. Grazie Veneziano. Prego, è stato un piacere. Buon lavoro. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Mi sembra assolutamente indispensabile che a questo punto qui a Mebius noi ci si interessi delle possibili relazioni fra Socrate e il tenente Colombo. E a spiegarvi questa ardua relazione è Chiara Albicocco. Tra gli appuntamenti del festival capita di incontrare anche i colleghi della radio e della carta stampata. Siamo qui con Armando Massarenti, responsabile delle pagine di scienze e di filosofia del Sole 24 Ore. Armando, tu hai presentato qui la tua ultima creazione, Dizionario delle idee non comuni. Allora, intanto un dizionario è un libro di definizioni. Che cosa vuol dire definire delle idee non comuni? Andare a cogliere degli elementi, magari dalla quotidianità o anche dal sapere scientifico, o anche dai dilemmi comuni o dal dibattito pubblico, per trattare in maniera rigorosa un problema filosofico. Questo è, credo, di grande utilità, oltre che di grande divertimento. Io per primo mi diverto molto, cerco sempre di infarcirlo appunto di un certo senso dell'umorismo e dell'autoironia che è necessaria in queste case, ironia e autoironia, che poi l'ironia sappiamo che era, e anche l'autoironia è la fonte della filosofia, pensiamo a Socrate, che qui è descritto come fosse Peter Falk nel Tenente Colombo, no? Cioè, se noi vogliamo immaginare chi è Socrate, che tipo era, dobbiamo immaginare quel tipo di dubbi che vengono, dubbi però produttivi che poi conducono alla conoscenza. Socrate. Guardate il Tenente Colombo e saprete che tipo era Socrate. Spettinato, trasandato, inseparabile dal suo soprabito stroppicciato, apparentemente distratto e smemorato, Colombo ci affascina per la sua umanità e per il suo metodo. Il suo procedere indiretto, apparentemente sconclusionato, è un misto di ironia, empatia, intuizione, deduzione e si condensa al termine di ogni episodio in un serrato ragionamento svolto con inaspettato rigore. Le idee non comuni sono quelle idee che attraverso le quali possiamo stupirci per arrivare però a delle cose che ci interessa sapere vere, che siano vere, insomma, che siano vere. Questo nel campo della vita quotidiana, così come nel campo della scienza, così come, che so, c'è una voce che si chiama autorevolezza, che parte dalle mozzarelle di bufala e dalla questione della loro... eccetera. Esatto, esatto. Allora, da lì si può fare un ottimo ragionamento filosofico su che cos'è appunto l'autorevolezza a partire da quella metafora. Oppure ci sono voci come buffe, magari come karaoke o caccole oppure porno tax oppure delle voci che appunto attraverso karaoke faccio una piccola filosofia dell'arte mostrando che ci sono delle arti dove l'imitazione è importante, dove magari c'è già un testo dato ed altre invece dove conta di più l'esecuzione. Ecco, chiarirsi le idee su queste cose è spesso è un bel gioco, può essere molto divertente, ma è anche molto utile, soprattutto quando si va su concetti che non so, riguardano la bioetica, con le voci che sono l'eutanasia, oppure anche la ricerca scientifica, gli oggi c'è la voce OGM. Ecco, infatti tra le 172 voci che tu prendi in esame ce ne sono parecchie di scienza, perché sì, come dici tu, nella quotidianità è ovvio, c'è sia la filosofia che la scienza. Sì, perché sempre di più noi vediamo nelle prime pagine dei giornali, nelle trasmissioni radiofoniche e televisive, una insorgenza continua di temi filosofico-scientifici e la nostra abilità deve essere quella di chiarirci le idee in maniera da capire in maniera corretta questo genere di informazioni, che saranno sempre più di questo tipo. Non possiamo pensare che la scienza sia fuori dalla nostra, la scienza e quindi anche la filosofia sia fuori dalle nostre vite, lo è continuamente. E un'anticipazione della definizione caccola ce la dai? Parto proprio da una notizia scientifica intitolata "Mangiarsi le caccole fa bene", ecco, e da lì parto per una disquisizione che però poi sfocia anche in una discussione di tipo morale sul disgusto, perché il disgusto è stato studiato dagli psicologi che effettivamente è una delle fonti più importanti per capire tutta una serie di nostri atteggiamenti. Non anticipo di più perché è una voce la più gettonata, quella che mi si chiede, anzi uno scrive tante cose, magari gli sembra di scrivere tante cose intelligenti, poi viene ricordato per queste cose. Caccole. Personalmente, tra i comportamenti quotidiani e diffusi, metterei in cima alla classifica la scena di qualcuno, magari un automobilista in sosta al semaforo, che dopo aver messo le dita nel naso si mangia le sue proprie caccole. Si tratterebbe di una pratica privata sgradevole che è improprio trasferire nella sfera pubblica. Poi, per tranquillizzarci, si fa un paragone con il mondo animale. Basta osservare un bel documentario televisivo di quelli con i primati che si fanno toeletta a vicenda, si prendono chissà cosa dai capelli e dalla cute e se la mettono velocemente in bocca. Perché noi dovremmo essere diversi? Morale? Che le nostre amate caccole e il ribrezzo che suscitano ci servano da promemoria su quanto forti e radicati sono, in generale, i nostri pregiudizi. Armando Massarenti ha presentato il suo libro al Festival della Scienza di Genova e di un altro saggio dall'argomento ben diverso, sempre presentato nell'appuntamento genovese, vi parla adesso Maurizio Melis. Dunque ci troviamo a Genova con Giorgio Celli, entomologo ed etologo, insomma ben noto al pubblico. L'occasione è quella della presentazione di un libro, Le piante non sono angeli, Baldini e Castoldi. E insomma il tema di questo libro e anche della conferenza di oggi è un aspetto appunto poco noto delle piante, cioè il fatto che si tratta di soggetti, e forse soggetti non è un termine così sbagliato in questo caso, attivi. Noi siamo abituati a pensare alle piante come degli oggetti totalmente passivi, che magari si difendono attraverso le spine, questo è l'esempio più classico, ma non con atteggiamenti più complessi. Invece ce ne sono, vengono certamente in mente le piante carnivore, ma lei ha parlato per esempio del caso di una mimosa molto, molto poco noto, è abbastanza sorprendente. Sì, la mimosa sensitiva è una pianta di origine messicana che quando viene toccata piega le foglioline, quindi sfugge all'indietro, e c'è da dire che lo fa con grande rapidità. Allora lo sprovveduto generalmente cerca tra le foglioline qualcosa come un insetto, invece è proprio la pianta che si muove così. Ciò è dovuto a due cellule alla fine, alla base del picciolo delle foglie, che si gonfiano o si sgonfiano di acqua e in questo modo producono il movimento. Però non sappiamo chi dia l'ordine di gonfiarsi e di sgonfiarsi, per cui uno dei temi della mia conferenza è di cercare di vedere se le piante abbiano una loro intelligenza. Che è un termine forte da usare con le piante, però la cosa che mi ha colpito molto poi di questa mimosa è che in qualche modo se la si tocca più volte smette di avere questo comportamento, è come se apprendesse che in fondo non c'è nulla da temere. Sì, esatto, cioè in un certo senso possiamo dire che si assuefa, e quindi la assuefazione in questo caso può essere anche considerata un apprendimento, una forma di apprendimento, e quindi come tale possiamo considerare questa mimosa alla stregua di un essere che si comporti. Quindi se si comporta vuole dire che possiamo fare un'etologia del comportamento delle piante. Tra l'altro, proprio sottolineava all'inizio di questa conferenza, c'è proprio una difficoltà col linguaggio, perché siamo su una frontiera in cui non sappiamo neanche bene che termini usare per descrivere il comportamento di queste piante. Certo, noi parliamo di intelligenza, non abbiamo un altro termine, la mettiamo tra virgolette, per dire che se si tratta di un'intelligenza, è un'intelligenza, deve avere una natura del tutto particolare. Non abbiamo però delle parole ancora per descriverla. Ecco, un altro aspetto molto interessante è questa che è venuto fuori, insomma, è quello della comunicazione fra piante. La comunicazione è veramente in qualche modo il simbolo dell'intelligenza, è una comunicazione molto diversa, ma è un po' il simbolo dell'intelligenza, e sorprende che possa avvenire tra piante. Intanto come funziona e se ci può fare qualche esempio? Certo, funziona in questo modo. Per esempio, diciamo, un salice viene aggredito da degli insetti. Allora, il salice comincia a tannizzare le foglie, cioè invia nelle foglie una sostanza che le rende indigeribili, e in questo modo si difende. Però non fa solo questo, invia anche un gas, l'etilene, agli altri salici, che cominciano, anche senza essere aggrediti, a tannizzare le loro foglie, cioè fanno una previsione, prevedono di essere attaccate. E quindi, come c'è stata fra queste due piante, quella attaccata e quelle no, una vera e propria forma di comunicazione. Ecco, c'è qualche idea dal punto di vista evolutivo di come si siano sviluppati questi meccanismi? C'è il vecchio problema, che però è stato superato, quello per cui, come dire, per esempio un'ala evoluta a metà non serve a niente. Ecco, com'è possibile che le piante abbiano evoluto questi meccanismi di comunicazione? Beh, nelle piante sappiamo che esistono dei bruschi cambiamenti di specie molto frequenti, che per esempio riguardano il numero dei cromosomi. Cioè una certa pianta ha un certo numero di cromosomi, ecco che per mutazione si raddoppiano e si ha una specie del tutto nuova che non si incrocia più con quella. Allora noi pensiamo che il criterio della selezione naturale, che dovrebbe procedere per gradi, nelle piante invece debba essere soggetta a dei cambiamenti bruschi, e in questo senso però non abbiamo ancora le idee molto chiare, insomma, su come questi comportamenti che hanno le piante si siano evoluti attraverso questi meccanismi saltatori. Non lo sappiamo ancora bene. Lei a un certo punto ha parlato di psichismo delle piante, le quali sarebbero più simili, per così dire, a delle repubbliche anziché a delle monarchie. Che cosa intende, e se c'è qualche elemento scientifico, se la sua è un'intuizione, una provocazione? Noi abbiamo una, diciamo così, qualcosa che governa tutto il nostro corpo, che è il cervello. Non sappiamo se le piante abbiano un cervello. Potrebbe essere che un certo psichismo sia presente in tutte le cellule della pianta, quindi sia una repubblica e non una monarchia. Da dove viene questa idea? Viene dal fatto che nelle amebe, negli organismi monocellulari, sono stati osservati dei comportamenti di caccia, per esempio, che sono delle vere e proprie strategie di caccia. Quindi pensiamo che un'ameba composta da una sola cellula abbia uno psichismo. Allora perché non pensare che per la pianta sia così? Tanto più che da una sola cellula di una pianta si può tenere tutta la pianta. E quindi tutto sommato deve essere tutto contenuto lì. È una specie di comportamento emergente, quello, come dire, di una colonia rispetto al singolo individuo, è corretto vederla in questi termini? Non lo so, dico alla fine del mio capitolo che vado ai confini della fantascienza e quindi questa è una disciplina ancora sul nascere, vedremo. Una notizia che è arrivata nelle ultimissime ore e senz'altro poi approfondiremo: due bolle di energia che emettono raggi gamma e si estendono, pensate, per 25.000 anni luce a nord e a sud, a partire dal centro della Via Lattea, che è la galassia in cui viviamo. In questa puntata l'universo entra in tutti i modi. La struttura ha quindi dimensioni enormi, pari a circa metà del disco galattico, ma si sviluppa in direzione perpendicolare a quest'ultimo. E a vedere questa cosa è stato l'occhio del satellite Fermi, che è specializzato nell'osservazione dei fenomeni che coinvolgono i raggi gamma. E sulla rivista Astrophysical Journal, che ospiterà l'annuncio di questa nuova scoperta, si ipotizza che potrebbe trattarsi del residuo fossile di immensi getti eruttati chissà quando dal buco nero supermassiccio posto al centro della nostra galassia, oppure di un flusso di gas proveniente da regioni ad alta formazione stellare. Patrizia Caraveo, che spesso avete sentito nella nostra trasmissione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, conferma che anche i ricercatori italiani hanno visto le due strutture, sulla cui origine però non si può dire ancora l'ultima parola. Paradossalmente, a rendere difficile l'identificazione esatta della sorgente di queste immense bolle energetiche è il fatto che si trovano molto vicine a noi. Insomma, qui c'è un altro bel po' di lavoro per gli astrofisici. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Soluzione del nostro quiz, che era: come mai gli Inuit, che vivono al Polo Nord, non hanno problemi di mancanza di vitamina C, nonostante le loro terre siano prive di vegetali? Bene, vi abbiamo dato come al solito tre alternative. A volte mi preoccupo delle risposte che inventiamo per accompagnare quella giusta. Non è che si creeranno delle false idee perché qualcuno capisce male oppure un po' disattento. In questo caso mi domando se possa sembrare plausibile che la vitamina C regoli le escursioni termiche del corpo, che poi cosa diavolo sarebbero queste escursioni termiche? Ma insomma, speriamo che non vengano fuori dei fraintendimenti. Nessuna evoluzione genetica, questo era plausibile ma era falso. Il muktuk, una combinazione di pelle di balena con grasso sempre di balena. Un etto di muktuk contiene 36 mg di vitamina C, come in una spremuta d'arancia. Ok, d'accordo, va bene, direte senz'altro meglio l'aranciata, però il muktuk l'avete mai provato? E allora come fate a dire che non vi piace? Oh, ecco qua. Comunque, gli Inuit vivono al freddo, ma adesso Barbara Gallavotti vi parla della cosa più calda che ci sia, e cioè la fusione nucleare. Si è svolta pochi giorni fa in Corea la conferenza dell'ONU sulla fusione, organizzata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. È stata l'occasione per fare il punto sul grande sogno di riprodurre sulla Terra la fusione nucleare, quel processo che tiene accese le stelle. Se riuscissimo a rifarlo sulla Terra, avremmo energia a sufficienza per sempre, per tutti e senza inquinamento. È un sogno però che, proprio nel momento in cui sembra essere più vicino, secondo alcuni sta svanendo, sta diventando impossibile. Ne parliamo con Piero Martin, dell'Università di Padova e responsabile dell'esperimento di fusione RFX. Buonasera. Buonasera a lei e buonasera a chi ci ascolta. Cominciamo dalle buone notizie. Ci sono dei progressi nella ricerca sulla fusione? Ma direi senza dubbio sì, nel senso che la mia visione è senza dubbio ottimista. La conferenza sulla fusione dell'Agenzia Internazionale, appunto, di cui abbiamo parlato, è un appuntamento biennale in cui tutti i paesi dell'ONU si ritrovano, i paesi che lavorano sulla fusione, per scambiare i loro risultati e i loro progressi. Quindi è un momento veramente di confronto importante. E devo dire che abbiamo respirato un'atmosfera estremamente positiva, grazie soprattutto ai progressi e alla partenza della costruzione dell'esperimento ITER, che è un esperimento molto grande che, diciamo, promosso da Cina, Corea, Giappone, Comunità Europea, India, Stati Uniti e Russia, che sono appunto i partner fondamentali e la cui costruzione è iniziata e sta procedendo di buon passo. Un esperimento che sarà realizzato a Cadrache, che è nel sud della Francia, a cui la Comunità Europea dà un contributo sostanziale per circa il 50%, e all'interno di questo sforzo l'Italia anche dà un contributo estremamente significativo, grazie anche alla sua forte scuola di fisica e di ingegneria. Ecco, però ITER non sarà qualcosa che potrà produrre energia per noi, sarà solo in qualche modo un passo intermedio. Quando è che avremo energia da fusione disponibile, nella migliore delle ipotesi, nell'ottica ottimista? Dunque, allora, ITER giustamente, come diceva, deve dimostrare la fattibilità della fusione ed è un impianto sperimentale. Il suo scopo è di produrre una quantità di potenza che è 10 volte superiore a quella che è necessaria per il suo funzionamento. Per dare i numeri, se si mette a 50 megawatt, ITER dovrebbe produrne circa 500, appunto, da reazione di fusione. Ovviamente ITER che dovrà condurci al passo successivo, che sarà quello di un reattore sperimentale di potenza, che si chiama DEMO, il cui compito sarà in grado di dimostrare su larga scala la produzione di energia elettrica. Allora, venendo alla sua domanda, se tutto va bene, una prima versione di DEMO potrebbe essere pronta, se abbiamo le risorse per farlo, in un intervallo di tempo che possiamo stimare fra i 30 e i 40 anni. Molti dicono che è proprio un problema di finanziamenti, non c'è abbastanza sforzo per la fusione e i maligni dicono che la fusione è sempre fra 30 e 40 anni, da molte decine di anni. Sì, no, questo è certamente un aspetto vero, quello che dice, nel senso che la fusione è un'impresa non facile, questo lo sappiamo bene, sappiamo che natura funziona, è alla base della vita nel nostro pianeta, ma la grande sfida è riprodurla in laboratorio. Credo anche che sia vero che noi in qualche maniera paghiamo probabilmente anche un eccessivo ottimismo di qualche decennio fa, di cui, diciamo, anche per la mia età non mi sento responsabile, ma certamente quando si pensava fosse più vicina. Ora però il nostro progetto, il progetto di oggi, è basato su risultati scientifici molto più solidi e molto più maturi e quindi diciamo la scienza per la comprensione del comportamento della fusione è molto progredita. Veniamo ai problemi tecnici. Qualcuno dice che comunque non potremo mai avere energia da fusione perché ci sono troppe difficoltà tecniche. Si tratta di avere una piccola stella accesa nel cuore di un reattore e questo vuol dire costruire un reattore con caratteristiche tecniche che di fatto sono irrealizzabili. È vero? In realtà noi stiamo facendo dei progressi molto forti. Certo, ITER dimostrerà che sarà possibile costruire un contenitore, diciamo, che grazie a un campo magnetico intenso è in grado di mantenere il nostro combustibile all'interno e di mantenerlo in condizioni di fusione. E dopo ITER, appunto, DEMO sarà in grado di dimostrare che questo è possibile anche su scala industriale, quindi che è possibile anche una produzione di energia. E la tecnologia in questo settore è molto avanzata. Ecco, l'altro punto dolente riguarda proprio questo combustibile. Qualcuno dice che non si riuscirà a mantenerlo nelle giuste condizioni per un tempo ragionevole. Bisogna ricorrere a una sorta di mix tra la vecchia fissione che fa funzionare le centrali nucleari a cui siamo abituati e questa avveniristica fusione da stella sulla Terra. Allora, da questo punto di vista direi che è importante distinguere. Il nucleare tradizionale è una soluzione per oggi, è probabilmente un ingrediente importante in un paniere energetico di oggi. La fusione è una soluzione per domani. E i reattori ibridi di cui lei parla in sostanza dovrebbero utilizzare in maniera combinata un reattore a fusione per ripulire le scorie della fissione e tramutarle in combustibile, permettendo quindi la fusione di realizzarsi in condizioni sottocritiche. È certamente una possibilità, ma credo che la fusione sia ormai sufficientemente avanzata per autorizzarci proprio a pensare che sarà realizzata di per sé stesso, perché poi alla fine anche senza soluzioni ibride e sfruttando quindi tutti i massimi vantaggi di sicurezza, di assenza di scorie radioattive di lungo periodo e di pulizia che la fusione ha. E credo che questa sia la sfida che noi dobbiamo seguire. In Italia c'è interesse verso la fusione da parte dei giovani ricercatori? Certo, l'Italia ha un presente e una tradizione d'eccellenza nella fusione con due grandi laboratori, FTO Frascati ed RFX Padova. A Padova, grazie anche a una forte sinergia con l'università, noi investiamo molto sulla formazione e da 4 anni ormai abbiamo lanciato un dottorato internazionale insieme all'Università di Lisbona, di Monaco, di Baviera e di Padova, appunto, il cui scopo è quello di formare le nuove generazioni di ricercatori che dovranno operare in ITER e in DEMO. È un progetto di successo e un'occasione, credo, molto bella per dei giovani che vogliono misurarsi con una sfida internazionale di questo livello. Grazie Piero Martin e buonasera. E buonasera a lei e grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato. In questa puntata abbiamo già affrontato una grande domanda ancora irrisolta, e cioè l'origine dell'universo, anzi l'origine dell'origine, quello che c'era prima dell'universo. E gli astrofisici, i fisici si stanno interrogando in profondità su queste cose. Anche Riccardo Giacconi, astrofisico, premio Nobel italiano per la fisica nel 2007, al Festival della Scienza di Genova ha tenuto una lectio magistralis di un'ora, e sentite che cosa ha detto a un certo momento. La maggior parte della materia dell'universo è nella forma di plasmi a alta temperatura. Questo è stato un po' uno shock. Cioè, per noi la materia è questo, l'idea che sia sti gas caldissimi, eccetera, un po', non so, a me non è piacevole. È come vivere nell'inferno, no? Allora, esiste la materia scura che si rivela per i suoi effetti gravitazionali, di natura ignota. La materia o energia dell'universo è composta il 70% di energia oscura, il 27% di materia oscura e solo il 3% di materia che conosciamo. A me dà l'impressione di vivere in un mondo di fantasmi, non so a voi. E quello che abbiamo scoperto con l'energia oscura è che l'espansione diventa sempre più veloce. Il risultato netto, se non cambia niente, è un'espansione continua, un freddo, un abbassamento di temperatura sempre maggiore e alla fine è morte nel freddo. Va bene? Ecco, sentite che posizione abbastanza curiosa. Lui è uno di quelli che contribuisce in un certo senso a produrre questi misteri sul funzionamento dell'universo, però si dichiara insoddisfatto. Insomma, lui dice c'è questa materia oscura, questa energia oscura che effettivamente funziona, cioè fa parte di ipotesi concrete che con i soliti metodi sperimentali, quelli che si usano in tante altre situazioni, insomma, in cui applichiamo la fisica, insomma, queste cose ci sono fondate, però resta il dubbio che ci possano essere altre spiegazioni, perché in fondo lui è, come dire, dispiaciuto dall'avere delle ipotesi sull'universo che siano così appunto oscure, così lontane da un bisogno di buon senso. Dunque, di buon senso invece non ce n'è assolutamente nel Viaggiatore onirico, spettacolo jazz, questo è il suo sottotitolo, presentato dal Teatro della Tosse, sempre al Festival della Scienza di Genova, un gruppo teatrale decisamente in gamba, molto bravi, molto simpatici. Il Viaggiatore onirico è la storia di un impiegato Amadi Dudu che un giorno prende il solito autobus per andare a lavoro e invece non è il solito autobus, ma un altro che lo porta dopo due giorni di viaggio in Exopotamia, strano paese tutto di sabbia nel quale lui, Amadi Dudu, subisce una trasformazione completa della sua mente. E sentite. Esatto, diventa il costruttore di una ferrovia che non si sa dove porti, e il tutto avviene in un luogo pieno di altre cose strampalate. C'è un narratore qua e là che le spiega e che arriva in scena a bordo di un'automobilina. Il direttore dei lavori è Amadi Dudu, un personaggio insopportabile, arrogante, insolente, in malafede e pieno di sé. È insomma la persona giusta al posto giusto. E infatti la costruzione della ferrovia fila spedita. Il professor Manj ha allestito nella cantina di Pippo una bellissima infermeria corredata di tutto punto, dai feriti alle brande in ferro. Alcuni degenti emettono toni di dolore che arredano l'ambiente con fantasia. Ecco, questo è un brevissimo estratto dal Viaggiatore onirico, spettacolo molto bello del Teatro della Tosse, speriamo che vada in giro oltre a averlo visto appunto a Genova. E con questo abbiamo esaurito tutti gli argomenti di questa puntata, ci sentiamo fra 7 giorni, buona serata a tutti e a tutte.